down to the upper way. I see you still strong after all that's going on. Life long, we dedicate this song. Just a little something to show some respect to the city that plans and mans and tests. Since 9/11, we're still living and loving life we've been given. Ain't nothing gonna take it away from us. We looking pretty and greedy, cause in the city we trust. See in New York, I know a lot has changed. Two towers down, but you're still in the game. Home to the many, rejecting no one except the peoples of our places, wherever they're from. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, we make it happen. Well, they say that punk rock has died away. I don't believe a word they say. Sing for tomorrow, sing for today. We all need a little punk rock and roll. The world needs a little punk rock and roll. Gegen den Kommunismus. Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info. Eccoci qua ancora in diretta di nuovo con Allegro con Fuoco, la prima, diciamo, puntata nell'etere dopo la pausa estiva, e quindi ad aprire sempre la nostra trasmissione la musica di Hans Eisler con le parole di Bertolt Brecht, l'ode al comunismo, e nella versione cantata da Carmen Maiantoni, e che abbiamo qua in apertura, con la quale salutiamo sempre tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e diamo un grande abbraccio a chi ci segue privato della propria libertà personale, a tutti i compagni e le compagne, il proletariato imprigionato, costretto agli arresti domiciliari o alla latitanza. E quindi apriamo questa serata con un po' di musica. Diciamo, inizialmente vi facciamo ascoltare un brano molto, molto tranquillo, molto dolce. Si tratta di Johannes Brahms, traiamo dalla sua sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in fa maggiore, opera 99, e il secondo movimento, adagio affettuoso, quindi appunto nella versione che abbiamo qua della suonata dalla Jacqueline Dupré al violoncello e Daniel Barenboim al pianoforte. Quindi vi faccio ascoltare questo primo brano e poi andiamo avanti con altra musica. Quindi sempre sintonizzati con questa piccola grande radio, Radio Onda Rossa, che trasmette dal 1977 nell'etere romano e laziale, poi sviluppatasi nel web e con il sito ondarossa.info, solo attraverso e il sostegno che viene dalle sottoscrizioni di tutte le ascoltatrici e ascoltatori di questa emittente, sottoscrizioni che possono essere fatte al numero di conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci numero 56 001 185, Roma. Ma anche possono essere fatte attraverso il web, seguendo il percorso indicato sul sito, o anche venendo qua in radio e partecipando soprattutto alle iniziative messe in campo nei vari territori romani, laziali e nazionali, a volte messe in campo da questa emittente, da Radio Onda Rossa. Quindi vi lascio a questa musica che vi ho appena annunciato e ci sentiamo tra un poco meno di 10 minuti. Thank you. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio sul web ondarossa.info. Era questo l'ascolto che vi avevamo appena annunciato e qua circa insomma sì, erano 7 minuti e 46 secondi e, della tratto dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in fa maggiore opera 99 di Johannes Brahms. Era il secondo movimento, l'Allegro affettuoso, nella versione che ci siamo ascoltati e interpretata da Jacqueline Dupré al violoncello e Daniel Barenboim al pianoforte. Daniel Barenboim, sappiamo insomma, il direttore d'orchestra e pianista, e Jacqueline Dupré, una violoncellista che è stata anche compagna di vita di Daniel Barenboim, che insomma se ne andò in giovane età e quindi insomma per una brutta malattia e quindi insomma e però insomma, nel suo percorso di vita ci ha lasciato diverse opere interpretate da lei, immagini, filmati che possiamo recuperarli un po' sul web e un po' dappertutto. E quindi questo era il primo brano qua in apertura del nostro spazio dopo la pausa estiva qua dai microfoni di Onda Rossa dal 56 di Radio Volsci. E come secondo pezzo ci ascoltiamo invece un pezzo di Hans Eisler, che è appunto l'autore della musica e della sigla che abbiamo in apertura e in chiusura, lo del comunismo di Bertolt Brecht. E adesso ci ascoltiamo Hans Eisler in una sua interpretazione, una sua suite numero 1, opera 23. Ci ascoltiamo nei suoi interi 4 movimenti. 4 movimenti così composti: il primo un preludio in for minor passagaia, il secondo un intermezzo, il terzo potpourri über russische Volkslieder e il quarto allegro energico. Nella versione che qua abbiamo della Leipziger Kammermusik Vereinigung des Gewandhaus Orchester diretta da Max Pommer. Attenzione qua per il terzo movimento, questo potpourri über russische Volkslieder, che sarebbe un potpourri sopra dei canti russi. E vabbè, questa sicuramente riconoscerete tutti quanti e tutte quante, e la musica che ha dato vita insomma al grandissimo e famoso canto di lotta Stato e Padroni, e che abbiamo anche sentito ultimamente in diverse versioni. E quindi comunque fate attenzione nel corso di quest'opera, il terzo movimento, e insomma sentiamo anche questa versione forma classica, anche se Hans Eisler non è proprio un diciamo sì, un interprete del Novecento, della musica classica, però dà un'interpretazione un po' tutta sua, che è gustoso farvi ascoltare in questo momento. Quindi ve lo cedo alle vostre orecchie e ci sentiamo tra, ma sarà circa 15, poco più di 15 minuti. Quindi un buon ascolto da queste frequenze, la Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info. Thank you. We'll be right back. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info. Si conclude così quest'opera di Hans Eisler in appunto la suite numero 1, opera 25, composta di 4 movimenti, il preludio in forma Einer Passacaglia, un intermezzo, un potpourri über Russische Volkslieder, che praticamente sarebbe la musica che abbiamo ascoltato negli ultimi minuti, e quella del famoso canto rivoluzionario Stato e padroni, e il quarto movimento allegro, energico, e quarto movimento che sembrava quasi voler essere l'inizio di un'altra insomma di un'intera opera, invece era la conclusione, e in questa costruzione particolare che gli ha dato l'autore, appunto Hans Eisler. E la versione, quella che ci siamo ascoltati, era della Leipziger Kammermusik Vereinigung Gewand des Gewandhaus Orchester, diretta dal direttore d'orchestra Max Pommer. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo, qua quando sono le 20.38 dai orologi di Radio Onda Rossa, e ci ascoltiamo la sonata per pianoforte e opera 1 di Pierre Boulez. E Pierre Boulez conosciamo tutti come direttore d'orchestra, ma anche e soprattutto un compositore. E ci ascoltiamo questa sonata per il solo pianoforte suonato da Glenn Gould. Quindi un buon ascolto da questi microfoni, 87.9 di Radio Onda Rossa, e sul web ondarossa.info. Thank you. Radio Onerosa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio. Questo era l'ascolto di pezzo di Pierre Boulez, la suonata opera 1 per pianoforte solo, il pianoforte in questo caso era quello di Glenn Gould. Ci ascoltiamo verso la chiusura di trasmissione un ultimo pezzo di Johann Sebastian Bach. Si parla di un concerto per quattro clavicembali e archi, e in la minore la Bach Werke Verzeichnis 1065, nei tempi senza indicazioni di tempo il primo, largo il secondo, allegro il terzo. Quindi ve lo mando subito al vostro ascolto. We'll be right back.